Pronto, di nuovo siamo in diretta davanti alle Cagne Sciolte. Mi senti? Sì, ciao, ciao a tutte e a tutti. Niente, la situazione è, per chi ha già sentito gli aggiornamenti di prima, analoga. Hanno identificato 10 persone, siamo una quarantina di solidali e di persone che insomma sono qui determinate ancora a presidiare questo spazio e non se ne vogliono andare. Le intenzioni non sono chiarissime, comunque pare che debba arrivare la CEA e quindi per ora noi siamo qui. E continuiamo a lanciare l'appello di raggiungere il posto. Sì, assolutamente, comunque sta continuando ad arrivare gente, questo ovviamente ci fa non solo piacere ma ci dà forza, quindi chiunque riesce ad arrivare è ben accolto, ecco. Va bene, quando volete richiameteci e noi vi diamo il microfono. Va bene, grazie, va bene, grazie un a saluto te. A tutte. Ciao, grazie. Forza.